Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Grande l'emozione per essere stato ospitato da Matteo Caccia. Adesso però cambiamo, passiamo da un vulcano di idee a un altro vulcano di idee. Giampaolo Colletti, che ne ha inventata un'altra delle sue. Oggi parliamo, come abbiamo già preannunciato, di iperlocalismo. È vero, Giampaolo Colletti? Sì, buon pomeriggio Luca, grazie. Parliamo di iperlocalismo, dei fenomeni di comunicazione microlocale. Tra l'altro il 3 e il 4 giugno, diciamolo subito, che cosa succede? Giovedì prossimo e venerdì prossimo oltre 70 videomaker da ogni parte d'Italia si incontreranno a Terni per una 2 giorni formativa per capire come si accende una televisione in casa. Saranno moduli per davvero capire l'ABC per fare una TV in casa. Per cui insomma torna Giampaolo Colletti col suo esercito di cittadini videomaker, di creatori di micro web TV, di videoblog, insomma quant'altro. Oggi giornata di storie, ma prima le news. iPad follia. Oggi è il giorno del tablet della Apple che è arrivato in Italia. Le agenzie di stampa battono bollettini allarmanti. Lo store a Carugate in provincia di Milano è stato preso d'assalto, tanto da aver anticipato l'apertura alle 8 di mattina. Negli Stati Uniti, a partire dal 3 aprile, la Apple ha finora venduto milioni di esemplari dell'iPad, superando le più rosee aspettative. In Italia il prezzo oscillerà dai 499 euro per la versione Wi-Fi ai 799 euro per quella con 3G e 64 GB. Si parla di oltre 125.000 ordini. Scienza. Il cervello dei razzisti funziona in modo diverso. Lo avevamo già intuito, ma ora ne abbiamo la prova scientifica. A differenza di quello delle altre persone, fatica infatti a identificarsi spontaneamente nella sofferenza fisica di individui di altri gruppi etnici. Lo studio sarà pubblicato i primi di giugno dall'autorevole rivista scientifica Current Biology. La prova è arrivata mostrando a soggetti sottoposti a stimolazione magnetica transcranica, sia bianchi italiani, sia neri africani residenti in Italia, immagini di aghi che venivano conficcati sul dorso di mani dalla pelle di diverso colore. Io stavo piacevolmente chiacchierando con Monica Rossi di Storie Digitali, è la prima delle nostre storie, magari la introduce Giampaolo Colletti. Beh, un esempio di memoria del territorio. Le micro web TV sono anche questo, documentano ciò che accade e ripropongono anche filmati rigiditandoli. Ecco, questo è il ruolo di storiedigitali.net di Milano. Monica Rossi va bene, secondo te? Ha presentato bene? Sì, appunto, noi facciamo questo lavoro che insomma, vuole dare gli stessi diritti dei contenuti generati nel secolo scorso, quindi fin dall'inizio del Novecento, le prime fotografie e i primi video, e dare gli stessi diritti a questi contributi nell'era digitale di quello che invece oggi viene fatto e così facilmente diffuso in quanto già digitale. Prenderai l'iPad? Prendere l'iPad? Ormai cioè siamo martellati da questo. Se ce ne sono abbastanza, se uno vuole fare per forza l'early adopter, sicuramente. Sentiamo la storia di Monica Rossi nella scheda. Monica Rossi e il team di Storie Digitali avevano un sogno: creare uno spazio online come memoria storica. Una grande bacheca virtuale con i video realizzati da fine 800 ad inizio degli anni 80. Il sogno è diventato realtà. Su storiedigitali.net, micro web TV milanese, è oggi possibile visionare contenuti del territorio suddivisi anche per quartieri e aree geografiche specifiche. I filmati sono stati realizzati dagli stessi cittadini in analogico e digitalizzati da Monica e dal suo team. Allora, lanciamo un appello, come si fa nelle radio dove si lanciano gli appelli, insomma, nelle radio dove si lanciano gli appelli. Allora, cosa ti serve di Milano? Che cosa? Quali tipi di video? Quali tipi di foto? Cos'è che ti manca? Quale zona ti manca? Dov'è il buco, insomma? Ma diciamo, se vogliamo parlare di Milano, sicuramente in questo momento c'è molta attenzione per quello che riguarda i quartieri più in forte sviluppo, per cui dall'Isola alla Bicocca, alla Bovisa, tutto quello che c'è di queste zone è importante. Però cioè, l'appello vale per tutto il resto, in particolare un altro tipo di contenuto importantissimo è sicuramente quello che riguarda la cultura agricola e le cascine di Milano. Ma nel senso che è importantissimo, bellissimo, ma non hai una foto, non hai un video? No, abbiamo qualcosa, iniziamo ad avere qualcosa. Stiamo per iniziare anche un lavoro proprio con le cascine, che sono 59 sul territorio di Milano, e di cui una dozzina soltanto attive, e ci piace riportare agli occhi di tutti quello che è stata la tradizione milanese. Ecco, da che anno i video partono? I video del nostro archivio partono dagli anni 20, i primi 16 mm. Quindi avete dei 16 mm in digitale, che io mi vedo, sento anche il rumore, cioè sento il super 8. Il rumore, diciamo, non c'è perché li abbiamo messi senza audio, poi ognuno decide la colonna sonora che vuole online. Online tutti questi filmati, che non sono tutti quelli del nostro archivio, cioè l'archivio in locale riguarda tutta l'Italia ed è tutto digitalizzato in formato AVI o QuickTime. Quello che mettiamo online richiede un grosso lavoro di indicizzazione. C'è qualcun altro? Gianpaolo Colletti, ma c'è qualcun altro che sta facendo il lavoro della signora Monica Rossi? Ci sono altri micro web TV come Banca della Memoria, altri canali cittadini come Orso TV, che ripropone i video delle Valli Orco e Soana, i video delle vacanze, quindi anche dei turisti. C'è questa volontà della rete dal basso, quella locale, di documentare il passato, ed è una forza straordinaria perché poi diventa la forza della memoria. Chissà perché non fate come in Flash Forward il mosaico della storia. Flash Forward è una serie che seguo io, ma lasciamo perdere. Cioè è ricostruire, non so, 1950, l'Italia del 1950, un sito tutto completo, non questo solo quindi la parte milanese. Digitale, infatti riguarda tutta l'Italia. Però in particolare voi avete cose di Milano, mi hanno detto. No. No? Non so, cioè, diciamo che siccome è il sito che è un social network dove pubblichiamo noi e pubblicano anche gli altri cittadini, è un social network che è nato come numero zero a partire da un po' di materiale del nostro archivio. Abbiamo iniziato con Milano perché in quel momento stavamo facendo delle cose col Museo di Storia Contemporanea. Quindi l'appello è a tutta l'Italia. Però l'appello è a tutta l'Italia, e anzi il sito è navigabile nello spazio, nel tempo, proprio come dici tu. Puoi scegliere il 1961, una macchina del e vedere tempo, tutto insomma, quello che c'è, oppure per zona. E noi facciamo invece che macchina del tempo, macchina reale, ci spostiamo a Roma, nel quartiere Monti. Siamo in collegamento con Maria Alessandra Scuderi o Scuderi? Scuderi. Sbaglio. Buona sempre. Sentiamo la scheda. Gira per il suo rione armata di telecamera e nel salotto di casa monta i filmati. Maria Alessandra Scuderi, trentenne romana doc, per passione e professione è microeditrice di Monti TV, canale di Monti, rione nel cuore di Roma tra Colosseo e Quirinale. Nella sua TV casalinga trovano spazio le ultime botteghe artigiane, ma si denunciano anche i sanpietrini fuori posto e la mancanza dei passaggi pedonali. www.montitv.it. Allora, proviamo a dire qualcosa, nel senso che è un po' di anni ormai che è nata la Monti TV, o sbaglio? Sì, sono quasi sette. Quasi siamo sette anni. Ecco, e noi però ogni volta partiamo la bottega, abbiamo questa visione di una Roma un po' impolverata, un po' artigianale. È cambiata o è semplicemente marketing? Sfortunatamente sta cambiando, perché le botteghe stanno chiudendo e stanno prendendo posto i pub, le pizzerie, i negozi di souvenir. Quindi la storia di Roma sta andando a morire, e noi vogliamo documentare proprio questo. Siamo nati per questo motivo, poi ovviamente ci siamo anche orientati su altro. Cioè rischiate di diventare un po' come Storia Digitale, cioè di fare un po' da museo di una zona che non c'è più, non so se c'è, ma non credo che sia solo questa storia, ce ne saranno altre, no? No, ce ne sono anche altre. Noi volevamo documentare proprio il cambiamento del rione, e in questi sette anni si è accelerato il cambiamento. È un dato di fatto. www.montitv.it Giampaolo Colletti, rischiano di fare un po' da museo queste realtà di iperlocalismo, cioè questi tentativi assolutamente riusciti di raccontare il territorio con una telecamera e le foto e internet. Da un lato sì, però dall'altro lato sono a contatto con la gente, escono per strada, incontrano la vita di tutti i giorni. Molte di queste micro web TV che documentano anche il passato sono fatte anche da chi non è videomaker ma fa altro nella vita, come per esempio Napoli Est, una micro web TV fatta da architetti, giovani architetti che documentano l'evoluzione, il cambiamento, come dicevate voi, nella zona della stazione Garibaldi di Napoli. Però sono veramente a contatto con la gente e c'è questa voglia di iperlocalismo, di tornare al locale, ecco. Ma è così, perché il comuni, gli enti locali? È vero che il momento, insomma, vista la manovra finanziaria, non è proprio per la quale, verrebbe da dire, perché non accolgono questi suggerimenti, cioè il fatto che un comune giustamente decide di raccontare la storia del proprio territorio. Lo provo a chiedere prima a Monica Rossi, voi avete provato a bussare alla regione? Ma sì, ogni tanto proviamo a bussare. Devo dire che comunque il progetto archivio è iniziato 2 anni e mezzo fa proprio grazie a un micro contributo, ma anche dalla regione. E l'online è un contributo della provincia di Milano. Per cui funziona. Un anno e mezzo fa. E il problema è il progetto tecnologico è partito, ma di fatto con gli assessorati alla cultura, al territorio, eccetera, è più difficile avere a che fare. Nova Lab 24. Dobbiamo fare presto, quantomeno mi hanno detto così. Pino Maniaci, Teleiato, Corleone, Palermo, buongiorno. Buongiorno, allora facciamo così, iniziamo. Maniaci, perché già di maniaci in giro ce ne sono tanti. Oh, primo. Poi? Andiamo. Poi sì, appunto dicevi Corleone, Partenico, Cinisi, Terrasino, un po' il triangolo della Bermuda della mafia, ce lo siamo scelto un po' bene, eh? Allora, Maniaci, un secondo solo, mando una scheda su di lei, così almeno non restano colpiti i nostri ascoltatori, e poi ci racconta dove sta andando e perché dobbiamo fare di fretta. Questa è la storia di Pino Maniaci e della sua piccola grande TV a conduzione familiare. Il tutto non più di 100 metri quadrati suddivisi tra redazione, studio televisivo e regia, in un appartamento di una palazzina di Cinisi. Benvenuti su Teleiato, TV palermitana scese in campo contro le mafie. Sul web, Teleiato travalica i confini isolani, diventando esempio di coraggio in salsa digitale. Da poco il canale è stato raccontato anche da BBC, CNN e Canal Plus France. www.teleiato.it. Allora, Maniaci, dove sta andando così di corsa? Guarda, sono, guarda caso, al Festival delle Radio Universitarie a Perugia. Ah, per cui insomma è conteso. Pronto? È conteso da microfoni e tra le persone, no? Sì. No, guarda, io vado in giro molto volentieri perché sensibilizzare il nord, che il problema della mafia è un problema ormai di tutti, visto che c'è ancora qualche prefetto che dice che la mafia qui, non so, a Milano per esempio non esiste, non c'è. C'è chi lo dice, ma è poco credibile, oggettivamente poco credibile. No, anche perché dico, qui sopra abbiamo la sommatoria delle mafie, la Camorra, la Sacra Corona Unita, bella questa della Sacra Corona Unita che sembra una cosa di chiesa, no? E poi anche la Cosa Nostra che è diventata Cosa Vostra, è un po' cosa di tutti. Chiaro, Giampaolo Colletti. Pino, tra l'altro, ha raggiunto un record, credo sia arrivato alle 300 querele nel giro di pochi anni. Questo anche l'idea di come una micro web TV diventa anche un ruolo di presidio sul territorio, di denuncia di quello che accade in un territorio difficile. Credo si sia arrivati a 300, dico bene, Pino? Giampaolo, sono a 297, a 300 poi vinco la Mucca Carolina, quello è sicuro. Va bene Pino, ti lasciamo al tuo giro, insomma continua a lanciare i tuoi messaggi. Passiamo a Serena Giannico, spero di non aver sbagliato l'accento, lo faccio sempre, giusto? È giusto, buonasera. Allora, buonasera, Abruzzo Live TV, sentiamo la scheda. L'altra faccia della tragedia del terremoto aquilano. La gente comune e i loro racconti in presa diretta, in un canale online creato da giovani giornalisti abruzzesi. Da Lanciano, dove ha sede la Web TV, il team ha deciso di partire un'ora dopo la scossa mortale. In 6 mesi abbiamo documentato i paesi dilaniati, le sofferenze, come racconta Serena Giannico, a capo di Abruzzo Live TV, che ha vissuto nelle tendopoli aquilane. www.abruzzolive.tv. Allora, chiaramente ti devo chiedere di Dracula, insomma, il film che ha fatto della Guzzanti, che insomma ha raccontato l'Aquila, l'ha raccontata bene o no? Guarda, io non l'ho ancora visto Dracula perché dalle nostre parti non è ancora arrivato, c'è stata soltanto una proiezione all'Aquila che però non abbiamo avuto modo di vedere. È sospetto questo, sbaglio, no? Però la Guzzanti l'abbiamo incontrata spesso in giro per l'Aquila, nelle tendopoli dove c'erano le proteste. Pronto? Quindi, sì? Pronto? Sì. Quindi lei insomma è stata sul territorio. Voi continuate a documentare quello che c'è invece? Noi continuiamo a documentare quello che c'è, sì. E che cosa? C'è ancora molto da fare. E chi è che si sta raccogliendo intorno al vostro network? Non ho capito. Chi si sta raccogliendo intorno al network in questo momento? Che cosa raccontate dell'Aquila? Allora, dell'Aquila raccontiamo naturalmente ancora i disagi, la ricostruzione che non parte, la protesta delle carriole, il movimento delle carriole che è nato perché c'è quando la popolazione si è accorta di una città che doveva ancora, che era stata completamente abbandonata, quindi che doveva ancora essere presa in considerazione, perché fino a quel momento le luci si erano un po' spente sulla città. Infatti il documentario credo che da un certo punto di vista le abbia un po' riaccese. A questo punto credo che il testimone sia passato a voi. Io ricordo l'indirizzo www.abruzzolive.tv, giusto? Giusto. E do l'ultima, la chiusura, insomma, la lascio a Giampaolo Colletti. Avevamo detto prima che questa realtà, quest'ultima, è chiaramente una realtà di denuncia, anche di testimonianza di quanto è successo, per cui svolgono anche attività giornalistica da un certo punto di vista. Poi invece le idee, insomma, i progetti tipo storie digitali raccontano invece il passato. Ci sono tante anime diverse che compongono il tessuto delle micro web TV, dei portali iperlocali. Tutte queste storie si riuniranno appunto a Terni il 3 e il 4 di giugno per capire anche un po' come cosa fare insieme. Il meeting, tra l'altro, è organizzato con AltraTV.tv, col supporto di Current, con Nova 24 e con i Pazzi a Promos, e l'obiettivo è quello di fare un po' il punto sull'iperlocalismo. Una cosa particolare: in Abruzzo le micro web TV si sono moltiplicate dopo il terremoto, sono ad oggi quasi una quindicina, e il segno, prima ne erano 2-3, è il segno che quando ci sono situazioni di disagio l'interesse dei cittadini diventa più attivo e si creano questi network di comunicazione dal basso, ed è una grande forza di cittadinanza attiva, ecco. Ma hai detto quanti che sono aumentati in Abruzzo? Beh, erano 2-3 i canali fino a 2 anni fa, dopo il terremoto anche nelle tendopoli abruzzesi si sono moltiplicate, oggi sono una quindicina i network di micro web TV e videoblog territoriali. L'ho ripetuto apposta perché insomma mi sembra un dato super interessante. Io ringrazio Giampaolo Colletti, ricordo giovedì 3 e venerdì 4 giugno l'appuntamento a Terni, ma credo che sarà in diretta streaming, o sbaglio? Sì, c'è un sito che è academytv.tv oppure altratv.tv, e lì ci si potranno seguire anche i lavori per tutti i videomaker cittadini che sono sparsi in ogni angolo d'Italia. Ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi, ringrazio in particolare Monica Rosse che è qui con noi di Storia Digitale. L'appuntamento è per lunedì alle 16.30. Nova Lab 24. Nova Lab 24.